Quello che mi sarebbe piaciuto durante questo periodo è partire ogni volta che partono queste live che facciamo con Runtime Radio e dire giorno X della quarantena, ma siccome ci siamo dimenticati da quant'è che siamo qua in quarantena. Ma certo, perché tu non è che fai una quarantena dritta, precisa, rigorosa come Desmond, Desmond che c'è da dire contro la quarantena mia? È una quarantena perfetta, anzi io sto in quarantena da un par d'anni addirittura, quindi insomma meglio di me nessuno potrebbe stare. Allora carissimi amici, come tutti i giorni Runtime garantisce almeno una diretta al giorno, almeno una live se non due, addirittura ieri ne abbiamo fatte tre, record assoluto. Questo è l'impegno che ci siamo presi durante questo periodo di quarantena per farvi compagnia, per stare insieme, per farci compagnia. È una sorta di contributo che diamo insomma a tutte le persone che ci ascoltano, quelle poche persone che ci ascoltano, per stare appunto un'ora e mezza insomma in compagnia e parlare di cose che possono essere serie a cose che possono essere un po' più cazzatielle. Ricordatevi comunque che in questo periodo, e questo lo dico così insomma tanto per, questo è un periodo in cui chiaramente tutta la monetizzazione della pubblicitaria è completamente sparita, quindi se qualcuno ci dovesse avere voglia, www.runtimeradio.it, la scheda Runtime anch'io, e potete partecipare al nostro Patreon, insomma un caffè al giorno, no, perché se date solo un euro non ci arriva niente. Un caffè al giorno, allora se volete un par d'euro, 2-3 euro al mese, insomma a noi ci fanno sempre comodo. Già, 3 euro al mese ecco, fanno se bene. Mettete un euro però attenzione perché li regalate i soldi, cioè nel senso non arrivano a nessuno, però insomma non è che lo dovete fare, lo sapete, noi questo lavoro lo facciamo per passione da oramai tantissimi anni, sono quasi 10, quindi insomma ci conoscete, sapete come vanno queste cose. Oggi con Everything, ciao Michela. Ciao a tutti, bentornati. Abbiamo due ospiti, perché continuiamo questo viaggio che stiamo facendo in giro per il mondo per conoscere le questioni del coronavirus. L'altra settimana abbiamo parlato con due nostri amici nel Regno Unito. Questa volta ci spostiamo un pochino, ma siamo insomma andiamo in due posti, uno vicino al Regno Unito e l'altro proprio dall'altra parte del mondo. Ma perché noi abbiamo gli amici in ogni dove, ringraziamo questi amici in ogni dove, ringraziamo soprattutto il primo dei due amici che è qui con noi, che è per me praticamente abbiamo fatto i conti qualche mese fa di quanto tempo ci conosciamo. 36 anni forse, una cosa del genere. La Madonna, ma ce l'hai 36 anni? Però, no, purtroppo non ce l'ho 36, comunque però lui vive in Irlanda del Sud, dove vive, lavora. No, lui vive prima di tutto, che è la cosa più importante. Vive stra bene in Irlanda del Sud, sta una crema. E quindi chi meglio di lui ci poteva raccontare come sta funzionando il tutto in Irlanda? Beh, presentalo. Sentiamo però. Gianluca Primavera. Okay. Ciao Gianluca. Ciao Simone, ci sono. Ciao. Okay. Sono vivo. Bene, vivo, e quella è la cosa importante, che sei vivo. La cosa bella è che noi, quando facciamo queste trasmissioni, non diciamo mai abbiamo un contatto in Irlanda. No, l'amici nostri, quindi la professionalità go proprio. Cioè. Ma tipo gli amici nostri che abbiamo costretto a venire, tipo tu domani vieni in trasmissione, esatto, punto e basta. Ah, vabbè. Ricordiamo che Gianluca ci aveva da fare. Insomma. Comunque, vabbè, ci sdrammatizziamo un pochino. Adesso parliamo con Gianluca. Che Gianluca è in Irlanda del Sud, quindi parliamo un attimo di quello che è un po' un attimo la situazione lì, per quelle che sono le informazioni che lui è riuscito a raccogliere, anche un po' la sua percezione, che è importante. Dopo questa intervista ci sarà un brano e partirà invece l'intervista con Corrado Nannavecchia in Giappone, che è stata registrata questa mattina per ovvie ragioni, nel senso che il lume dorme adesso in questo momento. Credo che Corrado Nannavecchia credo che ci risponderebbe corca, come dicono i francesi, insomma. Allora Gianluca, inizio io, poi dopo ci rimpalliamo io e Michela. Diciamo che io non so da quanto è che in Irlanda, al di là del fatto che voi italiani avete comunque un contatto un po' più diretto con noi in Italia, da quando l'Irlanda ha iniziato a percepire che questa situazione era più seria di quanto in realtà potesse sembrare all'inizio? Allora, l'Irlanda, che tu hai chiamato del sud, che se te sentono qui veramente vanno pazzi. Te corchiano. L'Irlanda del sud è corca in realtà per loro, perché comunque è a sud. L'Irlanda ha cominciato a percepire il problema e il pericolo intorno a metà febbraio. Però le restrizioni che sono in atto adesso sono giunte solo intorno ai primi di marzo. Infatti questa è la nostra quarta settimana e qualche giorno di quindi quarantena. Più o meno come da noi, pratica, più o meno. Sì, perché comunque attenendoci alle informazioni che comunque noi avevamo raggruppato dall'Italia, comunque l'irlandese e l'italiano sono molto simili e loro ci guardano molto sia a livello culturale che altro, per cui ci seguono e diciamo quello che è successo ha fatto un po' da scuola e qui erano un po', diciamo, si sono un po', come dire, organizzati e si sono fatti trovare pronti, perché comunque sapevano che poteva essere un'evenienza, cioè una cosa che poteva succedere. Cioè un po' più svegli del buon Boris Johnson, insomma, un po' più svegli sono stati. Sì, no, chiaramente. L'immunità di gregge non l'avevano considerata loro, insomma. Ci puoi dare un po' di numeri e di dati allo stato attuale, da quello che magari vedete in televisione, giornali, eccetera? Sì, certamente. Allora, io al momento qui in Irlanda ci sono intorno ai 6.500 casi di coronavirus e purtroppo, cioè io non dico purtroppo perché comunque so che gli altri hanno dei numeri molto più alti, ma ci sono 263 morti alla data di oggi. Scusa, su una popolazione di? La popolazione irlandese è intorno ai 5 milioni. Ok, vedi già l'impatto è diverso, certo, ok. 5 milioni di irlandesi, ci sono 6.500 casi, dei quali 260 e qualcosa sono deceduti, tutti di età tra i 70 e gli 85. Certo. Dico per fortuna, ma non è vero, perché comunque sono sempre persone, anche se sono 4. Però insomma, parliamo dello 0.3 come mortalità qui in Irlanda. Che non è eccessivo, diciamo, rispetto all'Italia e ad altre nazioni che stanno in condizioni peggiori. Sì, comunque è ancora gestibile come dato, insomma. Senti, invece la propagazione del virus come si sta muovendo dal punto di vista anche geografico, se c'hai informazioni in merito? Sì, assolutamente, guarda, a livello geografico Dublino presenta più della metà dei casi totali irlandesi, ma per ovvie ragioni, che comunque la densità di popolazione irlandese è minima, e a Dublino ci sono quasi 2 milioni di persone su 5 milioni che ci sono in Irlanda, per cui fatti i calcoli. E, diciamo, la propagazione, la curva di crescita che era prevista dal governo e i messaggi che hanno mandato era di 15.000 a fine marzo, invece ci siamo trovati a 6.000, per cui siamo abbastanza positivi, perché le misure adottate finora hanno ridotto la diffusione dal 33 al 10%, per cui stiamo parlando di geograficamente Cork in maniera minima, l'ovest dell'Irlanda minima e Dublino ha preso quasi tutto in finale. Vabbè, quello era ovvio, è anche un po' il centro di interscambio più attivo, no? Da un certo punto di vista anche a livello internazionale, suppongo, no? Sì, no, assolutamente, ma se calcoli che comunque il 75% dei voli arrivano solo su Dublino di tutta Irlanda e diciamo tutte le compagnie sono più che altro incentrate nel centro qui irlandese di Dublino, per cui non avevo dubbio, non poteva essere altrimenti. Certo. Vai Michela, no, vedevo. No, da te, vai. No, vabbè, non è quello il problema. Allora, propagazione, allora... Ecco, la cosa importante, no, in questa situazione è quando ovviamente in anticipo un governo, magari sulla base dell'esperienza di un altro governo, mette in pratica delle misure che chiaramente sono commisurate sia alla propria densità di abitanti, ma soprattutto magari anche alla propria realtà locale, no? Perché come avete detto te, comunque Dublino magari è un fulcro abbastanza importante a livello della vita globale, insomma, dell'Irlanda, però poi alla fine magari... nelle zone più periferiche la densità essendo minore magari c'è un impatto diverso. Quindi quali sono state le prime misure adottate, quando sono state adottate e se queste misure poi in qualche maniera verranno più o meno allentate o subiranno ulteriori restrizioni. Allora, le misure sono state, innanzitutto hanno reso hanno preso l'attenzione del pubblico cercando di inserire questa come si dice, distanza sociale, la chiamano social distance qui. Sì. Nessuno può avvicinarsi ai 2 metri e addirittura nelle vie, diciamo sui marciapiedi dei parchi o delle zone un po' più strette, ci sono per terra dei segnali con scritto 2 metri con i segni vai su, vai giù, del doppio senso di marcia. Per cui, diciamo, sono state fatte bene, sono state messe in atto delle soluzioni. Sì, infatti io non ci credevo, invece ho visto delle foto, mi sono fatto anche un giro con la macchina a volte, le ho viste per terra queste cose sui marciapiedi. E, diciamo, le compagnie che hanno potuto lasciare le persone a lavorare da casa lo hanno fatto. A noi addirittura, io lavoro per una grande multinazionale, ci hanno fatto fare un giorno di prova la settimana prima che partisse la quarantena, per vedere come funzionava, per mettere in atto, insomma, per vedere se qualcosa non andava, insomma, per cercare di capire come potevano tamponare questa cosa. E tolto questo, le persone che lavoravano nella ristorazione e tutte queste persone che lavorano al contatto con la gente, sono state colpite in maniera maggiore, come tu puoi capire, perché non è che possono lavorare da casa, insomma, un cameriere da casa che fa? Serve il gatto. però diciamo che hanno fatto una cosa fantastica: i padroni, i datori di lavoro hanno licenziato, ma non licenziato in maniera, sai, vai via, hanno dovuto licenziare i propri dipendenti, sì. Madonna, i propri dipendenti, ho 15 anni che sto qui, ragazzi, scusatemi. No, vabbè, ma l'avremmo capito comunque. Hanno licenziato i dipendenti perché in questo modo la Intreo, che è, diciamo, la società, l'associazione che provvede ai pagamenti al sussidio. Sì. Del sussidio, esattamente, poteva diciamo lanciare questa, come si dice, questa c'è stata un è stato messo in atto un diciamo un sussidio diverso, diciamo, c'è un sussidio che e invece hanno lanciato questa nuova, vabbè, praticamente delle retribuzioni comunque date da questo ente in funzione dell'emergenza Covid, comunque. Ecco, un'iniziativa, non mi usciva la parola. Sì. Ah, okay. Cioè praticamente queste persone che non lavoravano più sono state licenziate per poter accedere, diciamo, a questo credito, a questo diciamo, a questi soldi. Giallo, tu devi fare come quando ci vediamo in Irlanda, mi devi chiedere a me in inglese come si dice in italiano una cosa. Io ti aiuto. Comunque è molto interessante, si chiama COVID-19 chiaramente, e il sussidio che viene dato tramite citizensinformation.ie. E praticamente tu fai l'applicazione, nell'arco di 2 giorni ti rispondono e la settimana successiva tu c'hai, per questo periodo che adesso è stato esteso fino a giugno, hai 350 euro a settimana e in più puoi anche applicare online per la riduzione dell'affitto. Infatti loro dimandano anche... Ma ti posso mandarmi, Fio, nel frattempo che riprendono? Sì, ma avrebbe dovuto essere stato licenziato lì, però, credo, quindi è un po' complicato. Tu puoi mettere dentro casa per un paio di mesi, tipo. Vabbè, comunque, ritorniamo. Comunque funziona solo se tu hai già lavorato in Irlanda per più di 2 anni, perché comunque certo, sono soldi che hai pagato tutte le tasse, chiaramente, che rientrano a certo, te. Certo, chiaro. Ovviamente. Diciamo le cose che sono successe, però purtroppo hanno visto che nonostante diciamo la gente lavorasse da casa ed aver comunque attratto attenzione della gente nel cercare di evitare queste congregazioni o, sai, la gente se comunque si incontra, e purtroppo diciamo la propagazione è andata avanti, per cui si parla di ulteriori restrizioni se non dovesse andare meglio da adesso a domenica, per cui si parlerebbe in teoria di una militarizzazione, perché fino adesso abbiamo visto i poliziotti in pattuglia, ma in maniera molto blanda, a chiedere dove stai, perché non stai a casa, quanto dista da casa tua dove sei adesso. però se dovesse andare male entro domenica e dovessero esserci ulteriori morti e una crescita più che progressiva, mi sa che sono cavoli da espellere, come diceva. Certo. Beh, anche perché diventa un costo insostenibile magari per una nazione, no, che cioè magari l'Italia in questo momento è riuscita, diciamo così, ad estrarre dei fondi d'emergenza per svariate centinaia di miliardi di euro, però poi alla fine comunque questi costi da qualche parte qualcuno poi li dovrà ripagare, no? Sì. E probabilmente, nel senso, ogni nazione deve cercare di mettersi a riparo da quel punto di vista lì, perché è chiaro, dal punto di vista sanitario è un'emergenza non da poco, no? Poi io penso comunque al fatto che anche se un 80% della popolazione si attiene, come da noi, no? Si attiene comunque a quelli che sono le ordinanze, c'è sempre quella percentuale di persone che poi alla fine sottovalutano o non hanno capito, oppure fanno finta di non aver capito perché loro devono fare come gli pare, perché c'è anche un po' questa situazione qua, insomma. Quindi lì diciamo, com'è secondo te, com'è la percezione appunto della gente? Cioè, la gente ha capito l'emergenza oppure ancora un po' c'è un po' in pozzo? Guarda, allora, le persone un po' più anziane si sono, non si vedono più, pare di abitare dentro in una nazione dei giovani, per cui tutto al contrario da noi, vedi, per esempio. Gli anziani sono impauriti. Io infatti ho un amico carissimo, scrittore e redattore di libri, che poverino, l'abbiamo conosciuto. Anthony, come no, certo. Sì. Io a lui gli faccio la spesa, gliela porto io e la lascio di fuori sul patio, e lui se la va a prendere e mi manda i soldi online, per cui poverino non si fida di uscire. Ah, fa bene, fa bene. Bene. E qui da noi è proprio il contrario, che sono i vecchi che vanno in giro, capito? Cioè... fanno la spesa per tutti. Per esempio, la settimana scorsa, tutto in lockdown, noi stiamo a casa da un bel po' e vado a fare la spesa e usciamo, sai, a turno, una volta esco io, una volta esce Iana e tutto più. E sono andato a fare la spesa e dall'altra parte della strada c'è un parco di fronte a sto supermercato, e c'erano dei ragazzi che giocavano a pallone con tanto di casacche, l'arbitro, ragazzi, ma non ragazzi di 15 anni, parliamo di persone tra i 27 e i 35. Io non lo so, allora qui hanno detto, il messaggio del Premier è stato chiaro: allora, state a casa, però uscite a farvi una passeggiata, andate a fare una corsa, chiaramente non dentro un parco in 600. Sì, questi esatto. Giocano, questo è un gioco di gruppo, ragazzi. Ma sì, no, ma infatti da noi ci sono state, a parte nel mi pare 3 giorni fa c'è stato il numero record di denunciati, no? Perché tu sai che in Italia dai 500 ai 3.000 euro di multa se per la contravvenzione praticamente al decreto. E il bello è che l'altro giorno ci sono stati tipo 12.000 denunciati, cioè sì. 12.000 denunciati, una cosa impressionante, di gente che faceva le partite a calcetto, che organizzava le scene, che facevano gli aperitivi, cioè. No, e lì veramente un po' te scoraggi, perché noi comunque il sacrificio lo stiamo a fare, no? E poi alla fine dici, vabbè, ma perché l'arti devono fare come gli pare, no? Cioè, nel senso, è un po' un atteggiamento un po' particolare che alla fine ti dà profondamente fastidio. Volevo dire, comunque, in linea di massima, chiaramente la ristorazione e il turismo penso massacrati da questa situazione. Comunque, in linea di massima, quello che indica il governo irlandese è di stare a casa come indicazione o come imposizione, che sono due cose un po' diverse. Allora, il Premier ha parlato chiaro, il Premier ha detto che dobbiamo stare a casa, per cui dover stare a casa io lo prendo come un obbligo nei confronti dell'Irlanda. Io sono in Irlanda da tanti anni e reputo una mamma che mi ha adottato senza chiedere da dove venivo o cosa facevo, per cui io credo di doverle dare e ritornare tutto l'amore che mi ha dato, e mi sono messo a casa perché capisco che comunque io posso essere un vettore di questa malattia, non averne nessun tipo, sperando dei problemi, però portarla ad un'altra persona che magari ci muore, capisci? No, ma infatti è quello il grosso del problema, che la gente non ha capito, capito? Per cui il Premier ha parlato di dobbiamo stare a casa per sconfiggere questo virus. Certo. Ma la gente ha preso questo come dobbiamo stare a casa, però io esco quando voglio. Per cui vedi gente che va in giro col cane, la gente che va a fare la corsa, 6-7 persone insieme. Sì. Però da quanto pare, stavo leggendo ieri, un 82% della popolazione ha capito e sta. Ok, vedi. È più o meno come da noi. Mi sa che gli irlandesi sono un po'. sono un po' simili a noi, come, che poi tra l'altro bisogna anche riconoscere che, essendo un popolo molto sociale, comunque vabbè, cioè nel senso il rapporto con la convivialità, con la musica, con i pub, roba del genere, cioè deve essere un sacrificio pari al nostro, penso, una cosa del genere. Scusa, ti faccio rispondere subito, però c'è un messaggio in chat che dice, giustamente, Lobby Frontali, i vecchi che si sono fatti sgamare, che giocavano a briscola in Lombardia, non ci hanno pari. E ti dico anche che quei vecchi sono tutti mentre bestemmiavano. Sì, e ti faccio notare che quei vecchi sono tutti e quattro morti, tra l'altro, cioè nel senso, era notizia proprio di qualche giorno fa, quindi vedi che poi alla fine l'ironia della cosa in qualche maniera si trasforma in una tragedia. Cioè noi tante volte ci ridevamo sopra, guarda sti coglioni, sono fatti beccare, che giocavano a boccia, morti tutti, no? Nel senso, vabbè. E d'altronde gli anziani sono... Vai, scusa Gianluca, ho un po'... No, ma io stavo ascoltando, no, tranquillo. No, dicevo sul fatto del fatto che l'impatto in Irlanda, che è un popolo, cioè comunque gli irlandesi sono un popolo abbastanza sociale, no? Socievole anche, quindi insomma deve essere un po' faticoso. Immagino che è impegnativa sta cosa, dai. Sì, no, per carità, la maggior parte della vita sociale dell'irlandese è, finito di lavorare, andare al pub ed incontrare nuovi amici o vecchi amici, perché loro comunque sono famosi per incontrarsi al bancone. Non c'è una serata in Irlanda, se ti metti a sedere al bancone, che la finisci da sola, perché comunque ti vengono lì e ti parlano, certo. E ti invitano al loro tavolo e tutto quanto, per cui loro ne soffrono moltissimo. Io c'è un comico irlandese che era in radio qualche settimana fa, che ha detto: il coronavirus ci ha portato 200 morti fino adesso, chissà quanti ce ne porterà fino alla fine dell'anno, ma mai sarà così alto il numero di morti di come lo sarà quando riapriranno i pub. È vero, ma aspetto pure io la stessa cosa. Beh, guarda, la sensazione che c'è sta non esisterà, no? Perché non esiste, in una situazione come questa non esiste. Però dovesse esistere il giorno in cui qualcuno ti dice: raga, è tutto a posto, no? Oggi è tutto a posto, basta, tutto a posto. Io penso che si scatena. Guarda, per effetto del Covid, del propagarsi del Covid, prima in Italia e poi in Irlanda, mi aspetto che la cosa finirà prima in Italia e poi in Irlanda, quindi io sono pronta, perché ovviamente, sai, è tutto, è tutto abbastanza magna, diretta la cosa, quindi sono pronta a festeggiare in Italia la fine del Covid e poi partire direttamente per l'Irlanda e festeggiare in Irlanda, quindi così, perché penso che siano imperdibili entrambi i festeggiamenti. Ecco, che si dice a livello economico in generale, al di là dei... Ah sì, hai ragione, scusa. Ah vabbè, vai. No, scusa. No, perché stavo vedendo le domande, che poi in realtà abbiamo più o meno già detto tutto, insomma, quindi cioè l'impatto magari economico a livello globale, perché chiaramente, a parte i settori quelli più importanti, quelli, ecco, turismo, e che sono le prime vittime, io penso che insomma a livello generale ci sia grossa preoccupazione, immagino, no? Sì, c'è grossa preoccupazione. Ieri una multinazionale, diciamo, di negozi qui in Irlanda ha deciso di chiudere, perché comunque stanno perdendo tantissimo. Però in realtà diciamo, c'è stato questo calcolo che è stato fatto dal governo, che comunque saremmo andati incontro ad almeno un 18-20% di perdita nei primi 6 mesi, per cui per il momento non è successo ancora, perché devo dire che l'Irlanda in genere, no, ma Dublino prima di tutto è diciamo casa di tante multinazionali, sia inglesi che altro. Molte sono inglesi, perché sono scappate dall'Inghilterra prima che, non dall'Inghilterra, scusate, dal Regno Unito, prima certo, che cedesse. Io non l'avrei manco accettati, io, no, adesso ve ne ritornate giù. Vabbè, ma loro non c'hanno colpa. C'hanno colpa, e di chi è la colpa? Mica ho votato la Brexit. No, e seconda cosa, perché l'Irlanda, come sta, diciamo, a livelli del Portogallo, come tassazione generale, per cui è molto bassa. Per cui, diciamo, in Irlanda tutte le grandi multinazionali stanno ancora lavorando, come diciamo la compagnia per la quale lavoro io, che stiamo lavorando anche di più in questo momento, perché stiamo diciamo coprendo anche altri tipi di dipartimenti. Però purtroppo, come dici tu, l'Irlanda per il 60% vive di turismo, e vedere Temple Bar con delle volpi che si aggirano, proprio gli animali, non le persone, le volpi intelligenti, proprio le volpi che si aggirano per le strade, per le viuzze, per vuota così, non, secondo me c'è, la perdita è veramente incommensurabile, è una cosa pazzesca. Immagino, anche perché da noi è girato, sì, quel video, non so se ti è capitato di vederlo, di quel ragazzo sicuramente ultra benestante, perché poi c'è un attico su Piazza Navona, no? Nel senso, però c'è questo ragazzo che suona praticamente con la chitarra elettrica un pezzo di Ennio Morricone e con l'inquadratura, c'era una volta in America. Sì, esatto, con l'inquadratura praticamente di Piazza Navona che era completamente deserta, insomma, quindi cioè io penso che sono immagini che in qualche maniera passano alla storia, no? Perché rivedere le nostre città, tu dici, oh, poi a Venezia si vede l'acqua pulita, se tu giri per Roma si sente l'aria fresca, ok, c'è quasi una sorta di... è come se uno dicesse a se stesso, dice, vedi, però tutto sommato, no? Alla fine è servito a qualcosa, no? Ecco, la tua sensazione su questa è un'opinione tua personale, proprio come Gianluca, hai la percezione del fatto che questo momento possa servire come riflessione anche per riappropriarsi dei propri spazi, dei propri tempi, anche di una visione diversa della società in qualche maniera? Sì, no, assolutamente, condivido appieno. Io non, cioè, che per quanto non credo che se torneremo e quando torneremo alla normalità, non credo che comunque cambieremo. Sarà così veloce, certo. No, non così veloce, esatto. Però vedere il pianeta respirare, il lasto sospiro di sollievo per sto mese e mezzo, due mesi, quello che è, capito? È del tutto brutto, cioè, nel senso, è come se il pianeta Terra ci avesse detto, ragazzi, cioè, fermi un attimo, buoni, che mi devo prendere una mesata, perché sto a pezzi. Stava a frutta, sì, è vero. Ma io penso che veramente sia un momento positivo anche per riflettere, perché noi, per esempio, è vero che è faticoso, no? Però dentro casa, per esempio, Michela si riappropria magari dei propri interessi, il tempo di leggere un libro, cose che noi veramente non... cioè, comunque la società va riconsiderata, questa è un po' la sensazione ce l'abbiamo noi, no? La vita, sì, in generale. È verissimo, c'è tanta emozione anche nel rivedere una persona su un video messaggio, persona che potresti vedere tutti i giorni, e ti rendi conto di quante volte tu hai detto, ah, guarda, non c'ho tempo, vediamo la settimana prossima, sai? E invece adesso lì che dici, cazzo, ma in realtà c'è un valore che viene dato alle cose, che è un valore che non è il suo, perché comunque la nostra società ci porta a correre tanto e prendere alcune cose per scontato, che poi non lo sono. Sì, bravo, bravissimo, esatto. La cosa che noi qui a Dublino, noi che abitiamo qui, cioè non siamo solo in due qui a casa, perché ci sono tante stanze e siamo un bel gruppetto, insomma, e abbiamo preso una mattina alle 4:30, ce ne siamo andati lungo il mare sulla costa, sopra a questa costiera di Rugo, e ci siamo andati a guardare una bella alba con il sole che usciva dal mare, e cosa che non abbiamo mai fatto da quando sto qua in Irlanda, l'abbiamo fatto perché a quell'ora lì non c'è nessuno, per cui non davamo fastidio e non andavamo a portare germi o cose varie, per cui tante cose noi non ci pensiamo. Io, vedendo il pianeta respirare per la prima volta dopo tanti anni, come tutte le cose che vengono per il male, comunque non vengono solo per il male, ogni cosa c'ha anche il suo lato positivo. Sì, certo, no? È chiaro. Sì. Bene. Michela. È così. Le albe irlandesi sono le più belle, comunque. Beh, mo adesso non esageriamo, cioè, sì. Nel senso, l'alba in ogni posto del mondo è sempre l'alba. Ricordatelo che il mondo è bello tutto, cioè poi ci sono dei posti che sono belli per un motivo e dei posti che sono belli per un altro motivo. Io, se potessi, come diciamo sempre con Michela, comprare un camper, partire oggi e non tornare mai più, cioè, nel senso, in tutti gli stati. Bello, bello, sì. Va bene, dai, io direi che ci siamo, no? Sì, più o meno, io direi, insomma, che abbiamo detto. Gianluca, vuoi aggiungere altro? Qualcosa che magari, un tuo pensiero, qualcosa che magari pensi ci siamo dimenticati? No, guarda, penso che abbiamo parlato un po' di tutto. Il pensiero mio, ragazzi, è, spero di vedervi al più presto, tutto qua. Anche noi, assolutamente. speriamo di poter, veramente ti ho detto, speriamo di poter fare sto tour dei festeggiamenti, perché assolutamente le tappe sono quelle, insomma, finisce Covid end come in Italia, festeggiamo in Italia, tu vieni in Italia, così festeggiamo in Italia e poi andiamo tutti in Irlanda a festeggiare. Bene, allora, adesso noi salutiamo Gianluca, però prima di salutare Gianluca vi ricordo che adesso noi mandiamo un brano, poi dopo c'è la registrazione dell'intervista che abbiamo fatto questa mattina a Corrado Lannavecchia per parlare del Giappone, e poi dopo ritorniamo anche per rifare un saluto e le considerazioni finali. Allora, io non so, Michela, tu conosci gli Skyscraper? Skyscraper? No. È una band famosissima, ma... Tu Gianluca conosci gli Skyscraper? Devo essere sincero, no. No, manco io. Però stava in una compilation rock molto interessante. Quindi adesso noi mettiamo questa Again, e tanto per, e torniamo poi dopo l'intervista a Lannavecchia e poi ritorniamo noi successivamente. Quindi ringraziamo e salutiamo il nostro amico Gianluca. Grazie veramente per la tua disponibilità. Grazie mille. Ringrazio a voi e un messaggio all'Italia, mi raccomando, tenete duro, ok? Dai. Perché anche tu. Resistiamo tutti perché è importante, ok. Grazie Gianlu, grazie di tutto. Ciao, grazie a voi. Carissimi amici, adesso c'è l'intervista di Corrado, come vi avevo detto, soltanto che mi sono scordato che dovevo fare una cosa, quindi io mi eclisso un secondo Michela parla così, insomma, magari non so, se fate delle domande in chat, chiacchierate un secondo con lei e poi ritorniamo perché devo fare, cioè mi sono scordato di sistemarla l'intervista. Oggi sono veramente terribile, lo so, me ne rendo conto. Allora, insomma, Simone sta facendo un po' come Conte, che è da stamattina che ci dice che arriverà in diretta, che arriverà in conferenza stampa, ma non si vede, non si sente, quindi sta creando hype, come si dice a casa mia. E che dire, andiamo a vedere su TPI l'informazione senza giri di parole, le ultime sul coronavirus. Ancora non c'è la conferenza stampa, quindi ancora è presto per dare la tombola dei morti e dei nuovi casi. Fino a ieri comunque i casi registrati erano 143.000 solo in Italia, quindi una cosa proprio mastodontica. E una news dell'ultimo momento vuole che se sia fatto il nome di Vittorio Colao verso la presidenza nella task force per la ricostruzione, che è l'ex numero uno di Vodafone. È una task force che Conte ha voluto assolutamente, composta da economisti, giuristi e scienziati, per ricostruire il paese dopo l'emergenza coronavirus. Queste sono fonti di Repubblica. Allora, De Luca praticamente anche lui sta facendo, come abbiamo visto ormai è il protagonista indiscusso di questo scenario del coronavirus italiano, e sta programmando l'obbligatorietà delle mascherine per tutte le persone che usciranno in tutti i luoghi pubblici a partire da fine aprile. Quindi entro fine aprile anche in Campania, sarà obbligatorio indossare le mascherine quando si esce di casa. Ad annunciarlo è sempre lui, Vincenzo De Luca. Anticipa l'ordinanza che arriverà nelle prossime settimane. Dice che non è stata ancora adottata la misura di Fontana, perché prima vuole mettere in produzione 3 milioni e mezzo di mascherine. Lui ormai è, cioè, l'uomo che cavalca indefesso tutte le difficoltà. È fantastico. E verranno distribuite gratuitamente a farmacie, medici di medicina generale, RSA, Caritas e servizi sociali dei comuni, per aggiungere le fasce più deboli, e poi saranno messe in vendita in supermercati e tabaccai a prezzo dimezzato rispetto a quello di costo. Quindi insomma un'iniziativa lodevole, spero che ci riuscirà, perché è un'iniziativa lodevole e sono veramente a favore. Allora, qua c'è una news delle 15.40, sono le 17.37 e alle 15.40 attendevano a minuti la conferenza stampa di Conte, però io non ho, correggetemi se sbaglio, ma non c'è stata sta conferenza stampa ancora, quindi non so, andando anche a controllare su Repubblica, perché a questo punto insomma controlliamo da tutte le parti. Controlliamo su Repubblica, assolutamente nessuna conferenza stampa. Questa sera ci sarà Propaganda Live, io vi consiglio di vederlo perché parlerà Gino Strada, quindi è molto interessante sentire che cosa avrà da dire Gino Strada in merito a questo particolare periodo, e anche su tutte le fake news che si sono propagate nell'ultimo periodo, quindi capire la posizione delle ONG in generale nei confronti degli aiuti alla sanità italiana. Allora, abbiamo il collegamento dal Giappone, siamo per svegliare Corrado che nel bel mezzo della notte ci farà questa bellissima intervista che vi invitiamo ad ascoltare. Allora, rientriamo, come avevamo promesso, siamo in registrazione in questo momento per ragioni di fuso orario, perché sapete che la Terra non è piatta, come dicono alcuni, e quindi c'è la possibilità che da una parte sia giorno, da una parte sia notte, e per collegarci con il Giappone stiamo facendo questa registrazione per avere un orario comodo per noi e per la persona che sta in Giappone, chiaramente. E la persona che sta in Giappone, che siamo lieti di presentare, è Corrado Lannavecchia. Ciao Corrado. Ciao a tutti. Benvenuto Corrado. Probabilmente qualche volta l'avete sentito in qualche podcast della, magari, che ne so, della Fu Bene Amata Multimanie, o comunque insomma con Luca Casciola, vari programmi, vari spezzoni per parlare insomma di quello che è la cultura giapponese. E Corrado insomma ci segue da diverso tempo, noi però è la prima volta invece che noi facciamo, mi sa, un intervento diretto con Runtime, vero? Sì, è la prima volta. Sì, avevo partecipato ad Offshore delle Multimanie sia per messaggio alle 4 di mattina. Sì. Perché ormai, in realtà io vi perseguito, non è che vi seguo. Tu non segui, ok. Senti, Corrado, giustamente, anche se questo è un momento un po' particolare, che lavoro fai? Cioè, qual è perché sei in Giappone? Così almeno facciamo... Sono in Giappone perché mi sono sposato con una ragazza giapponese, quindi diciamo per amore, vogliamo dire così. Però sì, come lavoro adesso faccio la guida turistica. In realtà faccio il disoccupato, perché come tutti sanno, il Giappone, come l'Italia, è completamente morta dal punto di vista del turismo, perché siamo completamente blindati, i confini sono chiusi, gli aerei non arrivano più a quelli per far entrare i giapponesi. Sì, no, ma infatti è per questo, vabbè, so che tu ovviamente fai questo di mestiere, che questo chiaramente è influenzato in questo momento da quella che è la situazione. Sì, si spera che tra qualche mese di ricominciare a lavorare. Sì, certo, quindi stringi i denti in questo momento. Sì, anche se appunto il governo giapponese ha promesso qualche aiuto, anche consistente in realtà, però per il momento non si sa ancora bene cosa si deve fare per richiedere questi aiuti, insomma, però insomma, sono previsti, con molta calma, allora, alla giapponese, però sono tutto previsto. Vabbè, d'altronde. Allora, iniziamo un po', cioè, consideriamo insomma il Giappone, che è un paese che è relativamente molto vicino alla Cina, no? E quando è scoppiato un po' tutto questo casino, in realtà pareva così dagli occhi di un osservatore occidentale che questo problema fosse, voglio dire, quasi più imminente in Europa piuttosto che in Giappone, che c'era magari una vicinanza geografica, magari anche un interscambio commerciale magari più fitto. La domanda che mi sono fatto, cioè, voi quando avete iniziato a vedere i problemi che si sono manifestati, che ne so, in Cina, ma in particolare in Italia, no? Nella zona della Lombardia, qual era la percezione che si aveva così dal Giappone di tutta questa storia? Allora, ti dico allora, il fatto che comunque la Cina sia molto vicina, anche perché il turismo in Giappone da parte della, io ti parlo anche del mio settore, perché quello che conosco meglio, in questi anni era dei numeri senza senso. Il Giappone era la prima meta turistica per i cinesi, quindi si aspettava anche maggiori contagi di quelli che poi ci sono stati in realtà. Però c'è stata una strana tranquillità, perché comunque il Giappone guarda poco fuori dai confini, almeno per la mia esperienza, e io vi parlo sempre per il mio percepito. Per cui quello che succede fuori dal Giappone, i giapponesi non credono che venga anche da loro, secondo la mia, insomma, la mia esperienza. Quindi sono posti lontani. Quindi hanno fatto tutte delle manovre, perché hanno subito chiuso i voli da parte della Cina e della Corea quando ci sono stati picchi di intervento. Però è stato tutto preso con, diciamo, relativamente tranquillità. Un po' anche perché appunto diciamo le abitudini giapponesi sono poco sociali, diciamo, tra virgolette, per cui non si stringe la mano, non ci si abbraccia, non ci si saluta, ci si inchina, quindi era un tipo di... Un comportamento poco a rischio, diciamo così. Poco a rischio, per cui loro sono sempre stati abbastanza tranquilli. Anche la politica, sì, si teneva ad occhio la situazione, però si stava tranquilli, anche perché poi i numeri di contagi erano molto bassi, quindi hanno percepito questa cosa. No, dicevo, tu pensi che questi numeri erano bassi perché in realtà un po' come si è verificato alla fine in tanti paesi europei, no? Dove si diceva che i contagi erano inferiori a quelli italiani, poi in realtà è uscito fuori che in realtà si facevano meno tamponi o quasi non si facevano per niente, no? Allora, quindi non c'era una reale verifica, no? Sì, in realtà non è una supposizione ma è un dato di fatto, cioè perché il Giappone ha fatto pochissimi tamponi fino ad oggi, anche ora i numeri non ce li ho sotto, ma ce li avevo ieri. Eccolo qua. Aspetta, che mi sono segnato anche i numeri. Per le grazie. Considera che il Giappone ad oggi ha fatto 20.000 tamponi. Madonna, no, considera che 20.000 noi tamponi. Considera che soltanto la giornata dell'altro ieri noi abbiamo fatti 70.000, quindi c'è proprio soprattutto perché adesso stanno un pochino controllando, diciamo forse un po' meglio. Prima c'erano delle procedure, perché i giapponesi vanno avanti sempre a procedura, molto rigide, per cui tu non potevi andare in ospedale e chiedere vorrei fare un tampone. Potevi andare, potevi poi rispettare il protocollo, dovevi essere stato con la febbre, diciamo, la febbre sopra i 38 per almeno 4 certo, giorni consecutivi. Sì. Vabbè, questo anche e da poi, noi però è così, sì. Capito? Quindi non c'era, diciamo, l'abuso dei test. Ho detto, Tokyo che ha 15 milioni di abitanti, di questi 20.000 tamponi ne hanno fatti 6.000. Certo. 6.000 test solo a Tokyo. E quindi sono stati, diciamo, la popolazione era tranquilla, lo è tuttora, diciamo, anche se si sono adottate delle restrizioni, però sono restrizioni alla giapponese, sono restrizioni volontarie, cioè loro ti consigliano di non fare certe cose. Vabbè, si basano sull'autodisciplina, diciamo così. Sì. Sì, però, sì, non comunque, sono imposizioni rigide, però diciamo che funzionano abbastanza, anche se no, perché negli ultimi giorni i contagi stanno crescendo in maniera esponenziale, come ma questo è un po' il problema di quello che si sta verificando in alcuni paesi europei, che dicevo prima, il fatto che non avendo verificato prima con i 15-20 giorni di incubazione del virus, poi piano piano la cosa esplode, no? Nel senso, è un po', cioè, c'è stato questo l'atteggiamento. Vabbè, il Giappone è una realtà particolare, poi magari con Corrado più in là nel tempo torneremo a parlare di Giappone, proprio perché secondo me, cioè ovviamente sempre per quello che è la sua percezione, però io mi sono fatto un po' un'idea del Giappone come paese, anche come cultura, anche come rapporto con lo straniero, no? Quindi c'è tutto un meccanismo, insomma, diciamo anche culturale, che chiaramente influenza e secondo me sta influenzando anche in questa situazione qua, no? Perché comunque non puoi pensare che una città di 15 milioni di abitanti con un rapporto turistico così intenso con la Cina, è vero che l'hanno bloccato magari per tempo, roba del genere, ci siano un numero di contagi così relativo, no? Secondo me poi magari il problema, sì, guarda, potrebbe anche Tokyo siamo intorno ai 5.000 più o meno, è un po', 5.000 un po' particolare, casi accertati un po' particolare, però comunque riguardo, però a un certo punto vai, scusa. Però la cosa appunto ti volevo dire, sì, quindi sui numeri un po' di dubbi ce li ho avuti, ti dico, però la cosa che mi fa comunque pensare che non devono essere proprio falsissimi, cioè un po' lontani dalla realtà, perché i morti li vedremo, perché io posso capire che qualcuno certo, si possa nascondere, però non ci sarà qualche famiglia, qualche cosa che prima o poi viene fuori, per cui non è proprio uno stato di non è la Cina, ecco, per fare paioni. Quindi quelli si vedrebbero prima o poi. E ripeto, qui ad oggi c'è un centinaio di morti a Tokyo. Bene, bene, bene. Vabbè, questo è evidentemente, essendo comunque un ambiente chiuso, un'isola, comunque probabilmente avendo indirettamente fatto un intervento precedente sulla chiusura magari delle frontiere, dei voli o roba del genere, già quello in qualche maniera ha messo una grossa pezza su una cosa che se noi vediamo nel resto del mondo sta facendo, cioè però capito, cioè, è un po' faticoso. Un giorno ragioneremo su questa storia quando sarà magari passata e si farà uno studio anche scientifico dal punto di vista pure dell'aspetto statistico, no? Perché, che ne so, l'Italia o gli Stati Uniti o New York per esempio hanno avuto questo impatto così devastante, perché altre realtà magari non ce l'hanno avuto, no? Nel senso, bisognerà un po' capire tutta questa cosa. Tu sai che circa due settimane fa, se non qualcosa di più, un ragazzo che vive a Tokyo ha fatto un video su YouTube dicendo praticamente che in Giappone avevano trovato questo farmaco miracoloso e che la gente andava in giro perché lì avevano già debellato il virus. Chiaramente questa cosa ha scatenato una serie di polemiche infinite, anche se poi dopo dalla regione, per esempio Veneto, hanno fatto l'ordinazione di questo farmaco, e la stessa ditta giapponese ha detto: guardate che, cioè, nel senso, state a comprare una cosa che non c'ha nessun impatto scientificamente verificabile. Che non è un farmaco che non è stato appunto creato per quel motivo, quindi ve ne prendete il rischio. Loro sono stati molto diplomatici. Sono stati onesti, però. Sì, no, su questo. Anche perché è un farmaco che non è in produzione. O meglio, non era in produzione. Adesso, sempre su le ultime dichiarazioni che sono state fatte dal primo ministro, tra i vari farmaci che ci sono, appunto, che vengono testati, c'è anche questo Avia. Quindi è ripartita la produzione. Però fino a, diciamo, quel video ha scatenato tutta una serie di cose che può darsi che siano anche positive, perché non erano dette male le cose fondamentalmente nel video, perché non era quello il motivo per cui i giapponesi erano tranquilli o giravano senza mascherine. Erano senza mascherine perché anche qua c'è difficoltà a trovarle le mascherine. Sì, vabbè, è chiaro che quel video era, diciamo, c'era un'impostazione errata di principio, no? Cioè, sì. Poi perché non c'è complotti, non c'era. Capito? Cioè, vai a fare comunque il sensazionismo, il complottismo su una cosa che. Ovviamente, oggettivamente, adesso magari forse in Giappone si percepiva poco, ma da noi è diventata, cioè qui è una guerra, no? Nel senso, ci sono centinaia e centinaia di morti ogni giorno, e capisci che la reazione non poteva essere spropositata rispetto a. Il problema è che ha creato anche, come posso dire, delle azioni dal punto di vista politico, cioè, nel senso, vedi il senso di responsabilità verso magari un media, no? Che uno non si rende conto, va lì, accende il cellulare, dice due cazzate e pensa che siano due cazzate, no? Invece poi alla fine, a volte, in certe situazioni, queste cose ci possono avere degli impatti incredibili, no? No, ma infatti, finisci. Sempre nel discorso del primo ministro, appunto, hanno stanziato un po' di soldi per la sperimentazione e hanno dichiarato che sono disponibili a condividere il medicinale con tutti gli altri paesi. Non è che è una cosa che si vuole tenere solo per loro. Quindi hanno investito anche nella riproduzione di questo farmaco. Poi vedremo se funziona, se non funziona. Ho detto, io non sono medico, quindi io riporto. No, va bene, infatti non entriamo su questo discorso, però noi abbiamo dato la notizia qualche tempo fa del fatto che era in stato di progettazione comunque un vaccino anche in Olanda, e che gli Stati Uniti hanno provato ad acquisirlo in esclusiva, no? Cioè, nel senso che poi è questo il problema, no? È come ti rapporti con il resto del mondo, no? Perché poi alla fine questa è un'emergenza che tocca tutti, mo al di là chi più, chi meno, perché magari sono stati più furbi o meno furbi, o sono stati più veloci e meno lenti. Però, insomma, comunque non si può fare un atteggiamento del genere. Ma comunque te lo chiedo, ma il giapponese invece, cioè, nel senso, il giapponese medio, al di là poi dopo parliamo anche di quelli che sono gli interventi più recenti, no? Però il giapponese medio, che cosa pensa quando vede questa cosa? Arrivano, che ne so, le notizie dall'Italia, se dovessero arrivare o roba del genere, che idea si è fatto? No, siccome le notizie arrivano molto dall'Italia, i telegiornali ogni giorno parlano dell'Italia, dell'Europa, soprattutto quando c'è stato il picco, diciamo, dell'epidemia, perché comunque il giapponese medio ama l'Italia fondamentalmente, è luogo di cultura, sono tantissimi giapponesi che viaggiano nel nostro paese. Per cui sono preoccupati, ma preoccupati in modo buono, infatti sono stati anche da parte delle iniziative per mandare mascherine, per mandare soldi, insomma, sono tante piccole realtà, però rimangono basiti dai numeri, perché non ci credono, cioè, non capiscono, non è che non ci credono, non capiscono come è possibile, perché appunto loro vivono in una realtà completamente diversa, cioè proprio già è sempre un paese punico in tante cose, ma lo è anche in questo momento. Perché anche lì, dice, tornando al discorso del lockdown, che poi quello, diciamo, soft alla giapponese, non è per tutto il Giappone, è soltanto quelle città che hanno appunto il maggior numero di contagi, certo. Quindi sono 7 regioni rispetto a tutto il Giappone. Beh, dipende poi magari anche dall'abitudine di circolazione delle persone rispetto ai vari distretti, alle varie regioni, come si chiamano, insomma. Infatti la maggior parte sono quelle intorno a Tokyo, più ci sono alcuni focolai che erano al sud, sempre perché appunto al sud del Giappone c'era molto è molto vicino alla Cina, alla Corea, quindi sono le prime, certo, località turistiche, certo, da quei posti. Oppure magari il giapponese geneticamente è meglio predisposto rispetto a... Ma chi lo sa, questo non te lo so dire, può darsi. No, no, vabbè, questa è chiaramente una battuta. Ho sentito di tutto in internet, anche il fatto che loro, siccome fanno sempre la profilassi per la tubercolosi, sempre il profilassi per la tubercolosi, e c'era chi diceva che questo poteva essere un motivo di questa presunta, diciamo, immunità. Che però, insomma, visto i numeri come aumentano, non c'è proprio tanta immunità. No, oggi siamo quasi arrivati a 200 casi. Quindi stanno salendo sempre di più. Certo. E tutto prima delle Olimpiadi sembrava tutto. Infatti, Abe, il primo ministro, passerà la storia perché in ogni conferenza stranza lui ripeteva under control, è tutto a posto. È tutto a posto, finché non siamo arrivati chiudiamo tutto, perché vabbè, è un po' quello che ha fatto pure Boris Johnson, il primo ministro inglese, è tutto a posto, è finito all'ospedale lui poi dopo, poverino, perché poi a me mi dispiace pure, non è che, insomma, però chiaramente che in Europa c'è un impatto molto molto forte. Senti, quindi praticamente al di là del suggerimento, diciamo così, dell'indicazione che è stata data alle persone, quali sono però le attività commerciali che magari è stato chiesto proprio di fermarsi, e quali sono un po' le conseguenze in questo momento in Giappone? Allora, ho detto, l'impatto maggiore l'ha avuto il turismo, appunto, quindi tutti gli alberghi, queste, diciamo, le strutture ricettive sono a zero praticamente, di prenotazione, tutte le cancellazioni ci sono state. Poi vabbè, tutti i luoghi di ricreazione, però sono stato fatto un po' per gradi. Prima, ad esempio, per dire, Disneyland e tutti i parchi tematici che ci sono in Giappone, quelli già dal 10 marzo sono chiusi. Però è stata una scelta dell'azienda, diciamo, suggerimento del governo, però è sempre stata una scelta loro, quindi queste attività. I cinema adesso sono completamente chiusi. Per un periodo hanno fatto... diciamo le programmazioni, però tenendo un seggiolino o due seggiolini tra una persona e l'altra, questa, mantenendo, diciamo, le distanze sociali, quindi ad oggi fanno un po' così ad oggi, però ripeto, tutte le chiusure consigliate sono le scuole, però anche lì dipende dalle scuole, perché ci sono delle scuole che dipendono direttamente dallo Stato, altre scuole invece che sono private, altre che dipendono dai quartieri, insomma, delle cose così, e quindi è sempre a discrezione della scuola. Diciamo, la maggior parte delle scuole sono chiuse. Facciamo una nota di colore, che in questo periodo iniziava l'anno scolastico. In Giappone l'anno scolastico inizia ad aprile e poi finisce a marzo, quindi preventivamente loro hanno anticipato la chiusura delle scuole, e di fatto ad oggi molte non hanno riaperto. Però anche lì hanno fatto la cerimonia, siccome è tradizione fare la cerimonia d'apertura dove arrivano tutti gli studenti, hanno fatto la cerimonia d'apertura. Quindi è un po' paradossale anche questa cosa. Tutte le attività tecnicamente ricreative, quindi karaoke, appunto dicevo, i cinema, i grandi magazzini, restano aperte, invece tutte le attività, diciamo, essenziali, tra virgolette. Ok, ma i ristoranti, per esempio? Ristoranti anche lì è consigliato, è consigliato di chiudere. Vabbè, tutti gli ambienti però, di aggregazione, diciamo così, quindi tutto ciò però, che diciamo, può esporre. I ristoranti restano abbastanza aperti, la maggior parte, però poi appunto hanno un calo di clienti, quindi andranno piano piano a chiudere, perché comunque il giapponese mediamente è responsabile, diciamo. Ci sono quei quartieri meno, diciamo, avvezzi alle regole, che invece lì è tutto aperto, come il quartiere di Shinjuku, che è quello, diciamo, a luci rosse. Quello un po' birichino. Comunque, sì, un po' birichino, e ci sono tutti questi club, questi locali. Anche perché chiuderli sarebbe un problema anche per chi ci lavora, perché lì sono tutti lavori un po' così. Cioè, dici, non è che, dicevo, non è che li smettono di lavorare, non guadagnano lì, non è che, cioè, non è che mi presento dal governo e dici: senti, che mi dai un risarcimento perché ho questa attività mezza illecita. Diventa un po' problematico, però sicuramente ho visto un po' di video in giro, insomma, fanno vedere un po' come è la situazione, e c'è sicuramente meno gente, anche se comunque quella vita in questi quartieri ancora si respira. Certo. Senti, invece, appunto, dal punto di vista economico, tu hai detto che comunque il governo ha promesso degli interventi per le famiglie, ecco, magari, diciamo, più che difficile. Ha promesso gli interventi, promesso. Però ancora non è chiaro. Non è chiaro ancora chi spetterà e bene come fa, però sì, sia il sostegno di, diciamo, i liberi professionisti come sono io, i freelance, queste cose, sia per le piccole imprese. Detto, sono consistenti perché, sempre da quello che dicono, si può arrivare fino a 2.700 euro. Beh, comunque, quindi, che non ci possiamo lamentare, però detto, è ancora fumosa, magari ci aggiorniamo poi più avanti, ti farò sapere. Così. Perché comunque, effettivamente, chi, detto, le grandi aziende restano aperte, chi può lavorare da casa fa il telelavoro da casa, altri devono andare, e comunque i treni funzionano, non ci sono limitazioni agli spostamenti. Detto, mia moglie, che lavora per un'azienda abbastanza grande che fa arredamento, appunto, ora sta lavorando da casa. Se dovesse andare in ufficio, però l'azienda gli ha vietato di prendere i mezzi pubblici. Quindi lei, nel caso, chiama un taxi. No, ma un taxi va bene, però un mezzo pubblico affollato no. Può chiamare un taxi, lo paga l'azienda, però dico, questa è una grande azienda, quindi ha lo possono fare. Lo stesso ritornando a Disney, perché è una cosa famosa, loro danno un contributo anche a, diciamo, ai part-time che non avrebbero diritto dello Stato, però è l'azienda stessa, capito? Senti, c'è una domanda che un po' non c'entra niente, poi andiamo all'ultimo argomento, perché vabbè, insomma, il tempo poi, insomma, cerchiamo di incastonarlo. Poi ho detto, secondo me, poi piano piano, ora che abbiamo allacciato questo link, poi parleremo di varie cose magari nel prossimo futuro. Ma la sanità, per esempio, in Giappone è pubblica o è solo privata come negli Stati Uniti? Allora, è una via di mezzo in realtà, perché tutti è un misto, perché tutti hanno una la traduzione letterale sarebbe assicurazione del popolo, fondamentalmente, che tu paghi comunque, però va in base al reddito, per cui poi se hai un reddito basso paghi poco, se hai un reddito alto paghi molto. E detto, appunto, ci possono essere casi, è successo anche a me i primi tempi che sono arrivato qui, che appunto più che altro studiavo la lingua più che lavoravo, e quindi non pagavo praticamente niente. E hai diritto a tutte le prestazioni, però devi pagare, diciamo, un piccolo ticket, che è il 30% della prestazione, che non è mica poco, eh? Ma diciamo che, insomma, non è pochissimo, però il 100% sarebbe peggio, te assicuro, no. quello senza meno. Mi è capitato di avere dei clienti che furbescamente hanno pensato che l'assicurazione sanitaria non servisse per stare una settimana in Giappone, invece sono trovati con dei bei conti salati. Ah, quindi questo vale anche per il turista, cioè se io vengo vale, tu devi avere una copertura assicurativa. Deve avere una copertura assicurativa, se no non, sì, non c'hai copertura sanitaria. Vabbè, per il primo intervento immagino sì. Al cioè, primo soccorso sì, e poi la vigenza e tutto il resto non te lo danno. Certo, ok. Quindi, quindi più o meno... devi fare la diagnosi, quindi... te la fanno, poi le medicine le devi comprare però. No, è chiaro, certo. No, è chiarissimo questa cosa. Senti, allora invece veniamo all'ultimo argomento, che è un po' quello un po' particolare, perché vabbè, poi ne abbiamo già parlato in separata sede. Diciamo che anche dal punto di vista della gestione organizzativa, tecnica, per quanto riguarda questa questione delle Olimpiadi, no? Perché insomma, però questo è un problema che ha avuto il CIO. Ha avuto insomma ecco le Olimpiadi in Giappone, ma ce l'hanno avuto anche la UEFA, la FIFA, insomma tutte le organizzazioni, le grosse organizzazioni sportive che comunque costruivano e avevano in organizzazione, in esecuzione quasi degli eventi sportivi di grosse proporzioni. Insomma alla fine c'è stato questo grosso ritardo, no? Nel senso che succede, che non succede, e finalmente alla fine si è deciso che queste Olimpiadi di Tokyo si sposteranno di un anno esatto, giusto? Però insomma ci hanno messo un po' a deliberare. Sì, sempre perché è il modo, diciamo, giapponese, che prendersi certe responsabilità è una cosa difficile, impegnativa, per cui si è detto, è andato avanti, lui è stato dal primo di marzo con questo under control, si fanno, finché poi si è arrivato alla fine, che era palese che se il Giappone stava bene tutto il resto del mondo non avrebbe potuto farle. E quindi però hanno dovuto aspettare che fosse appunto tutta l'organizzazione. Hanno iniziato le prime nazioni a dire noi non veniamo, tutto un po'. Il Giappone come prima cosa, finché ce le fanno fare, le facciamo, perché comunque hanno degli investimenti notevoli e quindi c'è tutto un baraccone dietro, ragazzi, che ogni giorno non ci penso, tra sponsorizzazioni, cose, sì, infatti tutti i lavori degli stadi, perché un po' di cose le hanno dovute anche costruire, le hanno tutte costruite a debito, perché certo, è risaputo che pensando tanto poi va bene, e invece è stato l'anno del disastro, però. Guarda, gli è andata male, perché poi comunque avere un evento così significa comunque anche positivamente comunque costruire infrastrutture, dai lavoro alle aziende, gli appalti e cose del genere, poi dopo il turismo, quindi quando ti si blocca una cosa del genere deve essere devastante dal punto di vista economico, penso, proprio per il Giappone stesso. Sì, e detto, da una parte va bene, perché essendo appunto nazione sovrana, se ha problemi stampa moneta e via. Però effettivamente è un grave danno, quindi c'era anche lo spauracchio della cancellazione, perché non era detto proprio, non era proprio sicuro il rimandarle, si potevano anche venire cancellate, quindi sarebbe stato anche peggio. Poi per fortuna sono riusciti a rispettare i contratti e quindi... No, ma il problema di questi eventi periodici, no, che comunque sono... diciamo incastonati in un periodo, ecco, tipo per esempio le Olimpiadi, no, sono di solito negli anni pari, ogni 4 anni, no, e poi non so se l'avevano addirittura, volevano riavvicinarli addirittura a 2 anni o roba del genere, però tu immagina comunque spostare di un anno significa rincastonare tutta una serie di eventi sportivi, sì, che magari non sono inizialmente toccati dalla situazione, ma che lo saranno per forza maggiore, perché magari nel 2021 a giugno magari c'erano altre situazioni, no, nel senso, quindi insomma è una bella cosa. Senti, ma io so che infatti hanno cercato di fare il possibile per evitare lo so, infatti, di cancellarli, però era, cioè, hanno cercato, aspettato, aspettiamo, vediamo come va, tutto tranquillo. Via. Tu hai dei biglietti per le Olimpiadi, giusto? Sì, io avevo avuto la fortuna. Immagino che sia stato un'impresa una cosa. Sì, perché poi come lo Stato è molto democratico, per cui hanno fatto una lotteria. Per i vari eventi tu dovevi iscriverti alla lotteria, se venivi estratto allora avevi diritto di comprare il biglietto per un'equa distribuzione. E quindi avevamo tentato varie cose, varie attività sportive, poi alla fine siamo riusciti a vincere 2 biglietti, a vincere la possibilità di comprare 2 biglietti per la finale di tutti, tra altre cose, la possibilità di giocare. Quindi abbiamo, e che succede per chi c'ha i biglietti? Succede che sopra c'è scritto bello a lettere grandi: in caso di cancellazione vi attaccate, non sono previsti rimborsi. Adesso anche sì, se ne è parlato storia... molto di questa cosa in Italia, in effetti, no? Perché poi in un paese, boh, adesso probabilmente è una prassi, cioè nel senso, se la guardano tutti, sì, in Giappone dicono, ma probabilmente è una prassi a livello globale, no? Cioè magari se fossero state le Olimpiadi a Roma sarebbe successa la stessa cosa, però uno sorride perché qui in Italia si dice, vabbè, ma in un paese anche soggetto, diciamo, a problemi geologici, insomma, di carattere, insomma, generale, no? Quindi alla fine dice, fa un po' strano, no? Il fatto che non si possa prevedere il fatto, però secondo me, voglio dire, vedrai che secondo me troveranno una soluzione, perché comunque la polemica c'è stata. Lo spera, ancora non si sa niente, ti ho detto, per il momento quello che sappiamo è che non ce ne rimborsano. Okay. E ti dico, non so negli altri paesi, però per quanto riguarda il Giappone è una prassi. Io ho comprato, sono andato ad altri spettacoli, ad altre cose, ed è una, diciamo, una cosa che è per tutti gli spettacoli, per il teatro, per i concerti, per tutte le cose. In caso di cancellazione non ci sono rimborsi. Okay. E per molti spettacoli, siccome loro vogliono evitare il fenomeno del bagarinaggio, non puoi neanche cederlo il biglietto. Quando c'è un evento di quelli proprio seri, importanti, probabilmente anche quello delle Olimpiadi sarebbe stato così, quando tu entri ti chiedono i documenti, perché devi corrispondere il nome a quello del biglietto. Vabbè, sì, questo è una maglia anche da noi, sì. Lo rivendo o ci mando qualcun altro, e quindi insomma vedremo, vi farò sapere. Vabbè, per il momento ho speso, diciamolo che ho speso tipo 600 euro per due biglietti per la finale dei tuffi. Minchia. Ma devi, cioè, stai vicino al tuffatore? Sì, il primo settore, insomma, quelle cose. Okay. Se abbiamo provato la lotteria, abbiamo provato quelli belli. No, certo. Non ti dico quanto costavano quelli della cerimonia d'apertura. Immagino. Certo. Ve lo lascio per la prossima puntata. Sì, anche se, ero curioso di questo, secondo me avevano preparato veramente un bel evento da quel punto di vista, insomma. Ma si vociferava di un Gundam gigante che accendeva la fiamma olimpica. Ma sta cosa del Gundam è un po' che se ne parla, che stanno facendo sto Gundam che si muove, no? Cioè, vabbè, a me fanno paura i giapponesi quando fanno queste cose. Perché secondo me prima o poi loro ci giocano e ci scherzano, ma stanno a costruire per davvero i Gundam. Guarda, sulla carta funzionano, sulla carta sono perfetti. Appunto, va bene Corrado, senti, io ti ringrazio perché insomma avere poi un'infarinata, poi ho detto il Giappone è veramente un mondo, tanti magari sono appassionati e pensano di conoscere magari un paese così lontano perché magari sono appassionati dei manga, dei fumetti, dei cose, roba del genere, ma in realtà secondo me il Giappone è veramente un paese da approfondire perché è veramente culturalmente lontano da noi. E noi tante volte quando sentiamo determinate cose storciamo un po' la bocca e diciamo però in realtà devi sempre entrare nel contesto, no? Cioè nel senso, in una cultura che si è sviluppata in una determinata maniera e quindi andrebbe compresa. Sarebbe bello comunque nel prossimo futuro magari ogni tanto fare degli excursus magari tematici, no? Nel senso, una volta ogni tanto, senza disturbarti più tanto. Va bene. Basta organizzarsi con gli orari, perché appunto queste 7 ore di fuso orario. Certo, se no ti telefoniamo alle 4 di mattina, va bene, no? Sì, quando mi alzo presto, va bene, dai, sì. Deve essere contenta tua moglie, soprattutto. Va bene, Corrado, io ti ringrazio, insomma, e ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Sorrow's heaping around my head. It's been heard and it's been said that you tried to date another guy. Didn't hide, didn't even try. Cheating me with lies again, making me remember when I used to hold you by the side, each night That's right, I kind of hope that maybe you might fall upon me. What have I? Your voice is saying to me, sit and cry. This was meant to be love's unkind and untrue. Oh, why did love pick out you for me? For me. For me. For me. I used to hold you, baby, so tight each night. That's right, I kind of hope that maybe you might fall upon me. E torniamo in trasmissione. Questa è stata la diretta più incasinata di sempre, ma in realtà non perché c'era una questione di gestione di chissà quante cose, roba del genere, è proprio che non ci stavo con la testa. Poi dopo ho fatto un po' degli errori all'inizio, pure durante far partire l'intervista, ma state tranquilli che appena finisce la trasmissione, nella versione podcast di questo episodio, insomma, sarà tutto sistemato, tutto sarà messo apposta. Poi vabbè, ogni tanto squillavano i telefoni, succede, insomma, praticamente succede un po' di tutto. Infatti ecco Michela se ne sta andando proprio adesso, che insomma fra un po' facciamo i saluti. Comunque spero che questo episodio vi sia piaciuto, perché insomma abbiamo cercato e continueremo nelle prossime occasioni a fare ulteriori esplorazioni, magari sentire qualche altro paese europeo, tipo la Francia, insomma l'Olanda, insomma paesi anche un po' più vicini a noi, per capire insomma un po' com'è la situazione. Detto questo, io vi ricordo che domani alle 11 di mattina c'è Il Vino Lo Porto Io con Alex Raccuglia live, e assolutamente non perdetelo, perché è veramente particolare e bella come trasmissione. Di solito si parla di vino con uno dei sommelier, tra i sommelier più importanti d'Italia, che è stato anche campione italiano lo scorso anno, se non ricordo male, e si fanno abbinamenti di vino a ricette. Insomma, poi se volete partecipate anche in diretta, potete magari anche fare delle domande e potrebbero anche rispondervi. Invece alle 17 c'è OGM, Ottimisti, sì, Oltranzisti Gastricamente Mortificati, con me e Simone, chiaramente, con Walter e Marco, e poi vorrà aggregarsi forse Puccio o Francesco, insomma poi vediamo chi vuole partecipare alla trasmissione. E domenica sempre alle ore 17 c'è Michela De Paulas Mono, quindi c'è Mono di Michela, e che è un'ennesima puntata come tutte le domeniche, un'oretta e qualcosa di parole e musica, insomma per stare sempre in compagnia e continuare a farci del bene tutti quanti insieme. Vi ricordo che Runtime fa almeno una diretta al giorno, ieri abbiamo fatto questo record dei 3 live addirittura, domani ce ne saranno 2. E vi ricordo che è il nostro impegno che ci siamo presi per stare tutti quanti insieme, non abbiamo mai chiesto niente e non continueremo a non farlo. Però visto e considerato che c'è stato questo abbattimento totale della monetizzazione per colpa insomma degli annunci Spreaker, che sono praticamente crollati, se qualcuno vuole comunque supportare il nostro progetto, andare su www.runtime.it e cliccare runtime.it o runtimeradio.it, adesso c'ho un momento di c'ho un momento di appannamento se qualcuno in chat mi supporta, e comunque lì c'è la scheda Runtime Anch'io e si può andare su Patreon e partecipare praticamente al contributo, diciamo, che si vuol dare magari al nostro progetto. L'unica cosa che vi suggerisco è di non mettere mai un euro, perché va bene 2, va bene 3, ma non mettete mai un euro, perché un euro comunque è veramente, sono soldi buttati, non arrivano a noi e vi vengono levati a voi. Quindi è una cosa insomma che vi suggerisco. Se proprio poi dopo non trovate appassionante Patreon per ragioni insomma anche legate al fatto che è un po' un sistema un po' barocco, un po' particolare, potete fare paypal.me/runtimeradio e lì lasciare 3 euro o 5 euro, quello che volete, insomma, se volete. Se non volete non fa niente, e continueremo per 2 o 3 giorni a dire questa cosa, poi torneremo a smettere, perché chiaramente in questo periodo è veramente anche brutto, no? Parlare di questa cosa. Non è che noi stiamo facendo le live per questo, anzi stiamo facendo le live per tutto il motivo per cui ci siamo sempre ripromessi di farle, cioè stare in compagnia e dare il nostro supporto, insomma il nostro contributo in questa situazione. Detto questo, Michela, scusate, ma la spesa a domicilio mi ha tolto un attimo dalla radio, però funziona e ci serve, quindi la sfruttiamo. È buona, è buona, è buona, è buona. Quindi stasera si mangia bene, insomma. Stasera cucino io, in realtà. Ah, stasera si cucina, no, non si mangia bene stasera. Vabbè, non si può avere sempre tutto una vita, va bene così. No, scherzo. In realtà devo dire che è stata una scoperta, insomma, come diceva, sapete, ho scoperto che... Ha scoperto di avere una moglie. Di avere una moglie, esatto, e che sa cucinare addirittura, penso, insomma, una cosa assolutamente particolare. Allora, ringraziamo tutti quelli che sono stati in chat. Grazie, ragazzi. Girasole, Walter, Puccio, Davide, Gianluca, Lobby Frontali, PRG. Insomma, vabbè, poi se siamo scordati qualcuno non fa niente. Ringrazio Michela. Michela, Mary, la prossima puntata cercheremo altri paesi. Cercheremo altri paesi, stiamo cercando di capire come arrivare al continente nero. Continente nero. Continente nero la vedo difficile, però comunque... In America secondo me ci potremmo arrivare in un modo o nell'altro, quindi adesso stiamo cercando di affinare i contatti, vediamo un attimo come possiamo fare. E quindi cercheremo di darvi in tempo reale praticamente la situazione nel mondo, che è, come abbiamo visto, in ogni paese è diversa, e speriamo che poi questa malattia in qualche modo ci abbia insegnato qualcosa, ma soprattutto ci permetta di tornare a una vita quasi normale, diciamo così. Ok, benissimo, sono d'accordo con te. E vabbè, era www.runtimeradio.it, come giustamente mi suggerisce il buon Walter in chat. Vabbè, scusate, oggi veramente tipo ictus praticamente, non so cosa mi sia successo. Comunque vabbè, ragazzi, grazie di tutto, grazie per esserci stati, e ci vediamo appunto domani con Il vino lo porto io e OGM, e domenica con Mono di Michela. Ciao a tutti.